Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, che cosa state facendo alle 11.09? Mettete mano al telefono, non state lì con le mani in mano, a mano che il tempo passa, sempre meno tempo per darvi una mano. Voi sapete che qui siete sempre in buone mani, insomma cari amici chiamatemi perché, come avrete capito, il tema di oggi sono le nostre mani. Diamoci una mano. Il padre e il bambino lo tiene per mano, c'è tutto il destino in un palmo di mano. Le mani che sanno parlare, che sanno guarire, che sanno... Stanno le vostre mani? 800 24 00 24, i messaggi al 349 238 6666, e siamo anche con il sul nostro profilo Facebook Essere Benessere. Iniziamo allora a guardare le nostre mani in un modo nuovo, con un altro sguardo, quello della medicina cinese. Un medico di medicina cinese, dall'osservazione della mano, pensate, proprio dall'analisi della sua forma, trae indicazioni molto interessanti sul profilo della persona che ha davanti. Ne parliamo oggi con il dottor Carlo Di Stanislao, medico dermatologo agopuntore all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, ospedale in cui è presente da tempo un centro di agopuntura. Buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno, ben risentiti. Tozze, affusolate, squadrate, piccole, grandi, gentili. Insomma, dottore, non si trova una persona con le mani uguali ad un'altra. Ma nonostante questa varietà, la medicina cinese raggruppa le mani in 5 tipologie. Però questo numero 5 non è un numero così trovato a caso. Assolutamente no, come molti sanno, la medicina cinese, come altre medicine tradizionali, attribuisce un valore simbolico ai numeri, e siccome l'uomo è il risultato della fusione fra cielo e terra, il cielo è rappresentato dal 3, la terra dal 2, ecco che 3 più 2 5. Dà luogo a 5 elementi. E sono 5 le dita della nostra mano. Assolutamente sì. Quindi che tipologie di mano possiamo vedere? Noi sappiamo che ci sono mani diverse. Io inizierei a parlare dalle mani belle, quelle armoniose, equilibrate, con le dita affusolate, ben proporzionate. Beh, innanzitutto sì, da un punto di vista estetico possiamo dire che esistono mani belle e mani brutte, ma da un punto di vista ingegneristico e biomedico le mani sono sempre straordinarie. Ricordiamoci che la loro capacità è stata definita anche in Occidente, ad esempio, da Kant, la parte visibile del cervello. Comunque, le mani più armoniose sono sicuramente appartenenti a due tipologie, che sono quelle che la medicina cinese definiva legno, una tipologia legata più alla fantasia, alla capacità di proiettarsi nel futuro, e all'individuo fuoco, passionale ed idealista. In entrambi i casi abbiamo appunto mani armoniose, ma nel primo caso avremo mani con dermatoglifi, cioè segni che si incidono sulla pelle in area plantare particolarmente evidenti, con tendini molto sviluppati; nell'altro caso dita particolarmente affusolate, dotate di grande elasticità. E se la mano è sempre bella, sempre utile, ma è un po' più tozzarella con le dita salsicciotto? Come mi quella dice? Che possiedo io e che conosco molto bene, la mano spatolosa dell'individuo che veniva definito terra, un individuo concreto, molto legato alla terra, legato ai ragionamenti, a quella che si chiama l'intelligenza deduttiva, ma ahimè molto spesso, a causa di questa sua tendenza, anche legata alla ruminazione e alla preoccupazione. Dottore, noi sappiamo che nel piede, secondo la riflessologia plantare, è rappresentato il nostro organismo, e infatti i riflessologi stimolano proprio particolari punti con massaggi o aghi. Ma il nostro corpo, l'organismo, è scritto anche nelle mani? Assolutamente sì, è proiettato con una somatoscopia molto precisa che ha subito una serie di raccordi e modificazioni nel corso del tempo, ma in senso generale possiamo rappresentarla così: gli organi interni sono posti sul palmo della mano, sì. All'estremità delle dita troviamo gli organi di senso. Ah, fantastico, quindi a ciascun dito corrisponde un senso. Assolutamente, sì, con un aspetto privilegiato per l'occhio che colpisce due dita, il secondo e il terzo, poi abbiamo la bocca sul primo dito, sull'anulare si proietta il naso e sul quinto dito l'orecchio. Ma dottore, se la mano è così sensibile, lei riesce, prima di salutarci, a suggerirci un esercizio per prenderci cura della nostra mano, ma per utilizzarla proprio come strumento di benessere, dato che toccandola, sfiorandola, manipolando alcuni punti, noi riusciamo a irradiare questo benessere in tutto il nostro organismo? Molto volentieri, davvero. Basterà prendere una pallina non troppo elastica, sì, semirigida, e contrarre il pugno contro la pallina facendo in modo che essa colpisca il centro della nostra mano, dove si situa un punto di agopuntura che è in grado di combattere sia lo stress fisico che quello mentale, condizione contro cui l'uomo moderno deve, diciamo così, svolgere una lotta eroica giornaliera. Si troverà un immenso beneficio a farlo mattina e sera per alcuni minuti. Quindi andiamo proprio al cuore del palmo, mi lasci dire così? Assolutamente sì, e guardi che quel punto appartiene proprio al meridiano del cuore, quindi la citazione non è casuale. Grazie dottore, buona giornata. E buon cammino a tutti voi, grazie. Grazie. Qua la mano, mano. Io, stringendo la pallina, faccio un po' di fatica, magari la presa si allenta, avverto qualche dolorino, e se indipendentemente dalla forma, da come funzionano le nostre mani, le avverto che insomma non sono più tanto belle, sono invecchiate, secche, magari sono macchiate, sono particolarmente sensibili, si irritano, si arrossano. Io vi avevo detto subito che eravate in buone mani, no? E infatti oggi in linea con noi abbiamo la dottoressa Riccarda Serri, dermatologa, presidente di Skineco. Buongiorno dottoressa Serri, buongiorno, bentornata. A tutti. La dottoressa Serri è presente anche nel nostro Daily Lab. Io vi rimando alla nostra palestra quotidiana, un laboratorio in cui impariamo ogni giorno a prenderci cura di noi stessi, quindi grazie anche alla dottoressa Serri. E abbiamo in linea con noi anche il dottor Stefano Respizzi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale di Humanitas. Due esperti perché oggi vogliamo proprio occuparci delle nostre mani a 360 gradi, quindi pelle, unghie, articolazioni. 800 24 00 24. Intanto raccogliamo qualche idea, ci aiuta la nostra scheda. Io direi di partire dalla superficie, dalla pelle. Andiamo. Tra le dita, la pelle è morbida o noti una certa secchezza? Le nocche sono lisce oppure hanno taglietti, screpolature e arrossamenti? Il contatto con l'acqua, con i detersivi o con alcune sostanze ti scatena un fastidioso prurito? Le unghie hanno cambiato colore o forma? Hanno striature o macchie? Dottoressa Serri, aggiunga lei! Aggiungo che sì, partiamo dalla superficie, ma non dimentichiamoci che è proprio vero che la pelle è l'organo più profondo che abbiamo, e in effetti anche la pelle delle mani e le unghie possono dirci molto su quello che è la persona, perché le mani parlano, la pelle parla e parlano in tanti linguaggi. Certamente le mani sono molto bistrattate rispetto alla pelle del resto del corpo. Sono sempre all'esterno, toccano tutto, vengono lavate frequentemente e non ricevono le protezioni e le cure adeguate. Per cui dobbiamo cercare un po' di vedere come fare. Ma ad esempio lei, dottoressa Serri, che di pelle se ne intende, si dà sempre la crema per le mani? Beh, io ogni sono giorno? Il tipico calzolaio con le scarpe rotte. Ah, io ora stavo guardando mentre passava la scheda le mie mani sono un disastro, perché io col mio mestiere mi laverò le mani 1000 volte al giorno. Io tocco le persone di mestiere, metto i guanti di lattice, i guanti di vinile. Devo avere sempre le unghie molto corte, molto curate, molto tagliate, ma soprattutto devo avere le mani sempre molto pulite ed igieniche. Certo. La crema me la metto, confesso, sono tanto brava a ricordare a tutti di mettere la crema, me la metto quando riesco e quando mi ricordo. Non sono molto brava da questo punto di vista, affido le mie mani a una manicure. Certo, anche a me però le unghie dicono molto e quando me le scopro un pochino mollicce che si sfaldano mi dicono esagerando, con magari sto toccando troppi detersivi, perché anche le unghie patiscono contatto con acqua, detersivi eccetera, e dovrei io stessa sempre proteggere le mani con dei guanti. Però, oppure quando sono fragili e si spezzano facilmente, magari non ci stiamo nutrendo a sufficienza. L'unghia può essere proprio un segnale di come va la salute di tutto l'organismo, perché quando sono fragili il luogo comune è che manca il calcio. Assolutamente falso, le unghie non sono fatte di calcio come le ossa, le unghie sono fatte di cheratina, per cui semmai mancano proteine, mancano aminoacidi. Spesso succede a chi improvvisamente diventa vegetariano, non mangia più carne in una maniera un po' irrazionale. Non dico che non bisogna mangiare carne, dico che il passaggio all'essere vegetariani richiede, deve essere molto intelligente, certo, e pieno di tutti gli aminoacidi essenziali. Oppure ci possono essere carenze di ferro, di rame, di zinco in caso di fragilità ungueale. Torniamo alle mani. Ci si protegge in genere, quando si va al sole, la pelle del viso, la pelle del corpo, la pelle del décolleté. Le mani quasi mai. In pratica cosa succede? Succede che ci accorgiamo delle mani e dei problemi delle mani quando i problemi ci sono. Per prevenirli dobbiamo sempre mettere la crema protettiva anche sulle mani, in caso di esposizione solare, di gite in campagna, di biciclettate, di scampagnate, perché il sole negli anni successivi, anche molto dopo l'esposizione, poi dà le sue visibilità. Certo, chiede il conto. Esatto. E allora parleremo di pelle, occhio quindi anche alle unghie, ma vediamo come si comportano le nostre mani, se funzionano bene oppure potrebbero funzionare meglio. Dottor Respizzi, questo è il campo suo, andiamo a sentire la nostra scheda. Prova a piegare ad una le dita. Si flettono e si estendono facilmente o a scatto? Ti capita di avere un formicolio alle dita? A quali in particolare? Quando torni a casa e giri la chiave nella toppa, fila tutto liscio o avverti una certa difficoltà? Afferra un barattolo e tieni la presa. Tutto bene? Oppure senti dolore? E dove? Al polso, alla base del pollice o altro? Dottor Respizzi, la dottoressa Serri, intanto che noi passavamo la scheda sulle mani, sulla pelle delle mani, lei se le osservava. Lei ha provato a fare una delle così a rispondere a una delle domande che contenute nella nostra scheda? Ha messo sotto stress un po' le sue mani? Come funzionano? Sicuramente sì. Io ho la fortuna di avere delle mani che per adesso non hanno particolare deformità, non danno particolare fastidio. A parte il primo dito della mano destra, ma lo tengo lì, lo tengo sotto controllo. Sì. Devo dire che è una parte del corpo che secondo me ha sicuramente un valore enorme nel nostro comportamento sociale. Ci diamo la mano, noi medici tocchiamo le persone. La mano segnala tutto, il saluto, la cattiveria, il terzo dito, cioè serve a fare un sacco di cose. E proprio per questo motivo, come diceva il collega precedente, è un organo biomeccanicamente fantastico. Ci sono moltissime ossa, moltissimi muscoli, moltissimi tendini e quindi ha una grandissima mobilità. Quando c'è questa caratteristica della grande mobilità, purtroppo si può andare incontro a fenomeni di usura, soprattutto nelle persone che fanno lavori pesanti evidentemente, ma immagino anche un pianista, ad esempio, no? Che fa un tutt'altro tipo di lavoro ma che sollecita molto le mani. Queste cose riferite nella scheda sono discretamente comuni, ahimè, da una certa età in poi. E ad esempio quello che viene detto lo scatto, il dito a scatto, quello che era riferito nella nostra scheda, è una semplicemente un irrigidimento della guaina dove scorre il tendine. Sì. Questa guaina, diciamo, diventa più rugosa, più rigida, un po' arrugginita, più stretta, più dura, e il tendine che ci scivola dentro ha qualche difficoltà di movimento proprio meccanico, non fa fatica a passare, e quindi a un certo punto si incastra in un punto, poi si scatta e procede normalmente. Questa è una cosa molto comune, soprattutto appunto nelle persone che sollecitano molto le mani. Senta, dottor Respizzi, ma la dottoressa Serri ad esempio ci consigliava di proteggere, di idratare le mani, di mettere anche la crema la protezione solare. Lei, questo aiuta, no, dottoressa Serri, ad evitare poi i segni del sole, quindi anche l'invecchiamento. Ma lei, dottor Respizzi, ad una persona giovane che vuole mantenere le mani, le dita sempre ben funzionanti, quali suggerimenti dà? Prevenire sempre meglio che curare? Fare un po' di ginnastichina? Sì. Assolutamente sì, anche perché le mani sono molto esposte appunto alla vista di tutti, e io, che sono ovviamente per deformazione professionale, noto spesso nelle attrici di una certa età, diciamo così, che hanno una faccia da ventenne, ma se li guardi le mani ti rendi immediatamente conto che l'età evidentemente è un'altra, l'età anagrafica è un'altra. Perché, dottoressa Serri, mi scusi se faccio questa breve parentesi, le mani non si tirano, vero? Sì, oggi si fanno moltissime cose per il ringiovanimento delle mani, anche relativamente semplici e non dannose, per cui quindi si può fare. Certo, è meglio iniziare a prevenire, quindi curando le mani adeguatamente, e non richiedono grosse cure, appunto un po' di massaggini con delle creme, anche creme all'arnica, all'artiglio del diavolo. Penso che anche il mio collega sarà d'accordo nel dire che sono erbe estremamente utili anche per mantenere la flessibilità delle mani, e poi creme idratanti, guardare bene con che cosa ci si lava le mani. Sì. Io spesso vedo i detergenti che sono per esempio nei self-service, nei bar, negli uffici, ma sono peggio dei detersivi piatti, lasciatemelo dire, per cui bisogna stare molto attenti a utilizzare prodotti delicati anche per lavare le mani, non solo per lavare il viso e il corpo. Vede, dottor Respizzi, quindi se ha qualche amica attrice un po' avanti negli anni con le mani che non corrispondono all'età del volto, può dare un po' di questi suggerimenti. Nicoletta, ma io la vedo dal mio punto di vista, cioè la deformità della mano o dell'osso della mano, perché è vero che la pelle si può controllare e curare, ma se uno ha una deformità artrosica delle dita della mano, c'è poco da nascondere, ahimè, perché purtroppo questo crea quelle nodosità, quelle deformità che vengono addirittura definite in maniera molto colorita, tipo a colpo di vento piuttosto che no, nei casi più gravi. Per cui a quel punto, se le persone che vengono da me si lamentano del fatto: ma perché la mia mano ha questi noduli, ha questa forma strana, perché si sta deformando? E io una domanda classica che faccio è: ma la sua mamma come aveva le mani, o il suo papà? Così. Ecco. E allora scegliersi i genitori è abbastanza difficile, però, e purtroppo alcune cose sappiamo che la degenerazione articolare è uno dei problemi. Proprio per evitare però che questa cosa sia la fotocopia dei propri genitori, quello che io do come consiglio è di stare molto attenti e di risparmiare la mano. Quindi evitare gli sforzi intensi, banalmente strizzare dei panni è una cosa molto violenta per la mano, fare lavori in giardinaggio, tutte queste attività sono molto impegnative per la mano, e quindi cercare di ridurre il sovraccarico della mano è l'indirizzo, assolutamente il consiglio da dare per fare in modo che le eventuali deformità artrosiche non si presentino. Quindi questa è un'attenzione che va posta non solo per l'aspetto pelle, quindi per l'involucro, ma anche proprio per l'interno. Quindi io consiglio sempre anche alle signore usare sempre per lavare i piatti i guanti, usare d'inverno i guanti quando si esce perché fa freddo, e sono tutte banali accorgimenti che servono a mantenere una buona salute della mano e contemporaneamente muoverla, perché tenerla ferma è peggio. Quindi il consiglio dato prima della pallina vale benissimo anche per l'apparato locomotore. Fantastico. Una banale spugna a casa con una spugna, io faccio ginnastica, faccio delle compressioni della spugna, ma non la sovraccarico la mano, cioè non la rovino. Quindi oltre alla pallina la spugna, adesso anche noi andiamo ai mercati, poi il meteo, poi via le vostre telefonate, ne stanno arrivando tantissime, 800 24 00 24, qua siamo pronti con due esperti a darvi proprio una mano, due mani, quattro mani. Tornati insieme oggi, ci prendiamo cura delle nostre mani, stiamo ripassando alcune regole, ricordiamo di idratarle, ricordiamo di proteggerle dal sole, di non affaticarle troppo, anzi di regalarle un po' di benessere, una sorta di stretching, vero dottor Respizzi, o con la pallina o come suggeriva lei con una spugna. Sì, banalmente una spugna è esattamente come una pallina di gomma piuma, è esattamente la stessa cosa. E tutti hanno in casa una spugna, quindi fare questo tipo di movimento, di esercizio lento, tranquillo, controllato, serve a rilassare anche la persona e serve anche a stimolare le capacità tattili della mano. Perché la spugna naturalmente è molto certo. Favorevole da questo punto di vista e soprattutto mantiene in movimento le articolazioni senza sovraccaricarle, quindi si risparmia. Voilà. Io alle signore che vengono in ambulatorio dico: faccia un po' la principessa, signora, provi a risparmiarsi un po' le mani. Bravo. E questa mi dice: ma io come faccio a lavare i piatti? Appunto, ci sono i mariti, ad esempio. Bravo, eccetera, eccetera. Bravo, dottor Respizzi. Domenico dalla provincia di Como, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, Domenico. Io vorrei rivolgere una domanda alla dermatologa della quale il nome mi sfugge. Dottoressa Riccarda Serri. Sì, grazie. Ecco, io sono 32 anni e da 13 anni, dal 98, sono affetto da una psoriasi al palmo delle mani. Ecco, volevo sapere se ci fosse qualche consiglio oltre alle solite pomate da porvi sopra, ecco. Dottoressa Serri. Allora, innanzitutto qui siamo nel campo di una dermatosi, non della cura delle mani e della prevenzione, per cui le cure delle dermatosi bisogna farle nello studio del dermatologo, non alla radio. E certamente quando lei dice le solite creme, molto spesso le creme sono le terapie dermatologiche, per cui non esistono le solite creme, esistono dei mix di prodotti farmacologicamente attivi che sono adatti a ogni individuo. Quindi in presenza di patologie cutanee bisogna rivolgersi al dermatologo che ha a disposizione oggi, dottoressa Serri, veramente tanti prodotti topici. Ma certo, ma poi si deve anche instaurare un bel feeling, perché il rapporto medico-paziente è basilare per la riuscita della terapia, questo non va mai dimenticato, quindi non è solo la pomata in sé, è proprio l'insieme dell'azione terapeutica svolta dal medico e dalla sua terapia che è efficace o meno. Però vede, il nostro ascoltatore dà un'indicazione piuttosto precisa di che cosa poi può muovere e peggiorare la psoriasi, ed è lo stress e la gestione dello stress. Siccome lo stress non si può combattere, lo stress è vita, dobbiamo imparare a gestirlo. Infatti era già lì pronto al telefono per parlare della sua psoriasi. Purtroppo certamente alla radio non ne possiamo parlare. Donato ci chiama da Varese. Buongiorno Donato. Sì, buongiorno, salve. Senta, io dottoressa, avevo chiamato perché avevo questa curiosità. Io soffro, diciamo, da un paio d'anni più o meno di un problema alle mani che tendono a gonfiarsi nella parte iniziale della falange. Sì. Il medico l'aveva identificata come una potenziale forma iniziale di reumatismo, però trattato con farmaci antireumatici e fatti i test, i risultati non sono stati particolarmente soddisfacenti. A dire la verità non è un invalidante, almeno sì. Non lo è per adesso, però il problema che io ho noto è questo, che si gonfiano, tende a diminuire se faccio molto movimento ho forza nelle mani, ma tendo a perderla più rapidamente del solito, cioè se faccio sforzi prolungati con le mani si affaticano più di quanto sia normale attendersi fondamentalmente. Per cui mi chiedevo se potesse essere più un problema magari di microcircolazione o di sistema linfatico piuttosto che di reumatismi. Così era un po' una mia domanda. Mi rendo conto che magari è un problema un po' specifico da trattare telefonicamente, però mi incuriosiva il parere di un esperto più del settore rispetto al classico medico di base, con tutto il rispetto per la categoria, ovviamente. Dottor Respizzi, torniamo a noi. Donato ci racconta un disturbo che viene declinato e raccontato con diverse sfumature anche da molti messaggi dei miei ascoltatori. Questo gonfiore, ecco, innanzitutto è importante se il gonfiore interessa tutte e due le mani o una sola, mi sembra, giusto? Assolutamente sì. Se ci si riferisce a quelle che dicevo prima, patologie degenerative della mano, diciamo così, l'artrosi della mano, gli esami del sangue di tipo reumatologico sono tutti negativi, non viene fuori niente da lì, e quindi non sono esami decisivi da questo punto di vista. O uno ha l'artrite reumatoide, speriamo di no, per lui, o se no gli esami sono sostanzialmente negativi. La deformità, il gonfiore della punta delle dita può essere però non solo di origine ortopedica, di apparato locomotore, ma anche di tipo dermatologico, quindi bisogna intanto chiarire questa importante differenza: è un problema dell'unghia o è un problema dell'osso? Certo. Se è un problema dell'osso, cioè dell'articolazione più distale, quella più lontana del dito, diciamo la terza, è possibile che si tratti di un'iniziale artrosi delle dita, che non ha nessun altro dato, altro sintomo, se non un po' di dolore, un po' di gonfiore che va e che viene, perché caratteristicamente queste patologie progrediscono a poussé, come si dice, magari c'è un periodo in cui si gonfia un po'. Che cosa si può fare, dottor Respizzi, per tenere un po' la situazione sotto controllo, per evitare che il problema diventi più serio? Ad esempio ci sono i fanghi termali, servono? Sì, alcune di queste tecniche, anche delle fisioterapie, cioè la somministrazione di energie di qualunque tipo a scopo terapeutico, sono utili, perché ad esempio i fanghi, piuttosto che una laser terapia mirata, piuttosto che altre tecniche tipo gli ultrasuoni, hanno la funzione di ridurre lo stato infiammatorio. Quando il dito è un po' gonfio, un po' caldo, un po' dolente, c'è un'infiammazione acuta. Se io agisco immediatamente con queste metodiche, rallento l'infiammazione, raffreddo tra virgolette l'articolazione, quindi faccio in modo che gli effetti negativi dello stato infiammatorio non deformino ulteriormente le dita. Quindi benissimo sia l'utilizzo dei farmaci, se si tratta di quello, sia l'utilizzo di queste metodiche, dai fanghi agli ultrasuoni alla laser terapia, e ce ne sono molte. Però l'importante è fare la diagnosi bene, perché non abbiamo esami del sangue che ci dicono guarda che c'hai l'artrosi. No, non ce le abbiamo. No. Però abbiamo tante domande dei nostri ascoltatori. Tra poco parleremo di due disturbi che mi state riferendo, il prurito e il formicolio. Abbiamo Emanuele da Bergamo, Cristian D'Ancona, a cui chiedo di aspettarci perché andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, e poi torniamo di nuovo insieme a tra poco. Essere e benessere. Prima di raccontarci quando ci prudono le mani e quando ci formicolano, all'800240024 diamo la parola a Emanuele da Bergamo che ci sta aspettando. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci, Emanuele. Ma io ho delle macchie bianche intorno alle unghie e diciamo ai piedi delle dita. Sì. Dove la pelle si fa sempre più morbida e con il pizzicorio. Purtroppo poi queste macchie le ho anche sul torso e nelle zone genitali. Ma sulle mani mi danno molto molto prurito. Sì, e quindi Emanuele sono chiare come se ci fosse... Sì. Si stanno sempre di più allargando, sto usando degli unguenti che mi ha dato il dermatologo, ma non... Nessuno le ha Emanuele, nessuno le ha fatto una diagnosi? No, mi hanno detto che è una mancanza di melanina e nient'altro. Dottoressa Serri, lei ha bisogno di vedere, ma certo, perché i dermatologi sono così, hanno bisogno di guardare. Ma noi dobbiamo vedere e toccare. Cioè, voglio dire, avete un nostro mestiere e siete autorizzati a farlo, e questo è il bello. E anche a spogliare. sbagliare le persone. Mamma mia, mamma mia. Senta, dottoressa Serri, però Emanuele ci racconta di queste macchie che un po' perdono, come se la pelle perdesse un po' il sì, suo colore. Può essere una ipomelanosi simil vitiliginosa, però io non posso fare una diagnosi radiofonica, insomma. Certo, anche perché non è stato cosa fatto. Molto seria. Ma come sempre noi prendiamo spunto dai nostri dalle indicazioni dei nostri ascoltatori per dare dei consigli anche generali e di prevenzione. In questo caso noi, se notiamo però sulla pelle, la pelle che si fa presenta delle macchioline più chiare, questo è un disturbo che non va sottovalutato, va riferito sempre al dermatologo. Quali indicazioni possiamo dare? Delle cose che succedono non bisogna mai preoccuparsi, ma bisogna occuparsi. Per cui non bisogna allarmarsi se si vedono delle chiazzette bianche sulle mani, vicino alle unghie. Bisogna andare dal dermatologo, parlare e vedere come affrontare la situazione. Quindi, perché potrebbe essere, ma non è detto che sia, un'ipomelanosi legata a una situazione di vitiligine che può anche rimanere localizzata. Ecco, oppure, dottoressa Serri, questi funghi di cui molti ascoltatori mi parlano, Mani, vengono sul tronco, si chiamano pityriasi versicolor, sono tutt'altra cosa, ma non vengono sulle mani. Vede che dalla telefonata del nostro ascoltatore abbiamo già tranquillizzato gli ascoltatori, e sono tanti che mi scrivono: ho delle macchioline bianche, saranno funghi? Sì, no. Sì. Possiamo dire di no. I funghi sulle mani si presentano in una maniera diversa, possono venire anche sulle unghie, si riconoscono da un ispessimento ungueale, possono venire soprattutto in chi usa molto acqua, tipo i baristi, i cuochi, le casalinghe, possono venire tra le dita, può venire anche una candidosi con prurito, cioè la candidosi è un lievito che cresce troppo, anche qui nessuna preoccupazione, si può curare e curare con la prevenzione, come diceva il mio collega prima, facendo un po' una vita più da principesse, usando i guanti. Ci dovrebbe essere, secondo me, anche una moda che aiuta proprio la prevenzione, perché l'uso dei guanti è sicuramente preventivo, ma può essere anche uno sfizio molto grazioso e carino. Perché lanciamo la moda anche in primavera, estate, torniamo ai guanti come quelli che mettevano le nostre nonne. Dottor Respizzi, formicolio, un formicolio che interessa soprattutto le 3-4 dita della mano, raramente il pollice, una sensazione che ci assale durante la notte ed è così fastidiosa da svegliarci, può capitare anche di giorno se rimaniamo con la mano nella stessa posizione, come durante la guida dell'auto, quando insomma ci dimentichiamo di aver la mano magari messa in qualche parte che invece che muoverla. E a questa descrizione lei che cosa mi risponde? Rispondo che di solito sono conseguenti a una compressione di un nervo e non a caso le ultime dita, la quarta e il quinto dito, sono quelle più interessate. E sono dovuti alla compressione dei nervi che originano dalla cervicale, che decorrono lungo il braccio e arrivano fino alla mano per dare la sensibilità. E questa è una cosa abbastanza comune, legata spesso a una sofferenza della cervicale cosiddetta. Quindi quando ci sono queste sensazioni notturne o durante il giorno in alcune posture, per cui si informicola il dito, si sentono le parestesie, si sente una mancanza di sensibilità, io direi di andare a indagare a livello cervicale, perché probabilmente l'origine è alta e non è periferica, a meno che non si tratti di una sindrome del tunnel carpale, che è una cosa abbastanza diffusa, che però ancora una volta è una compressione di un nervo alla periferia, dove c'è il polso sostanzialmente, non a livello cervicale. Quindi anche qui la diagnosi va posta in due condizioni completamente diverse. Senta, ma quando io avverto questo formicolio, nell'attesa di arrivare ad una diagnosi o insomma tanto che aspetto, che cosa faccio? Tengo un po' la mano, metto bendo il polso, cerco di non... di prima, Ecco, riprendo di nuovo la pallina, cosa devo fare? Lo muovo o lo tengo muovo a riposo? No, devo muoverlo, devo abbassare il braccio verso il pavimento e muoverlo. Alla notte è peggio, perché essendo io sdraiato si crea un accumulo di liquidi a livello del collo che può dare una compressione lungo le radici nervose. Quando invece sono verticale, sono in piedi, evidentemente questo non accade perché i liquidi vanno verso il basso. Quindi per quello che accade più facilmente di notte. E non necessariamente la soluzione al tunnel carpale chirurgica, vero? Assolutamente no. Assolutamente no. Assolutamente no, la chirurgia è sempre l'ultima spiaggia, evidentemente. Si tentano alte strade, ma banalmente un'infiltrazione dentro nel tunnel carpale con un farmaco cortisonico è già sufficiente spesso per risolvere i problemi. Mi piacerebbe, avrei tempo forse per Christian, proprio per salutarlo. Un ciao veloce, un buongiorno anzi, veloce a Christian da Ancona. Christian? Buongiorno, buongiorno a tutti. Io volevo fare una domanda al dottore. Volevo chiedere se è normale scrocchiarsi delle dita. Quello così? Problemi, e se crea problemi e se li crea a lungo termine o a breve termine. I rumori non sono mai niente, nel senso niente di grave. Ci sono persone che hanno una maggior lassità, una maggior gioco diciamo delle articolazioni, hanno questa abitudine, ma non è niente di grave, non è niente di strano. Poi quindi posso salutarvi con uno scrocchio delle mie dita? Ecco. Però è un tic, Nicoletta. No, vabbè, i famosi tic. Io vi ringrazio, ringrazio la dottoressa Riccarda Serri, il dottor Stefano Respizzi. Grazie. Grazie a voi. Prendetevi cura delle vostre mani, almeno oggi che ne abbiamo parlato, mettetevi la crema e andate su Daily Lab, sul sito di Radio 24. Buonissima giornata domani. Essere e benessere.